Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Ricominciamo una settimana con un tema che vi piace molto mediamente, quella dell'investimento nel mattone. Prezzi delle abitazioni ancora in discesa nelle 13 principali aree urbane del nostro paese, meno 1,6% nel secondo semestre del 2009, per quello che riguarda ovviamente le quotazioni, appunto i prezzi. La flessione è cominciata a metà dello scorso anno, negli ultimi 18 mesi, da quando la crisi si è fatta sentire nel mercato immobiliare. La perdita è stata di poco superiore al 5%, un calo che potrebbe apparire modesto in termini assoluti, ma è significativo per il mercato italiano, e questo lo dice Nomisma, che ha presentato venerdì scorso il consueto rapporto dell'osservatorio immobiliare. Naturalmente una tendenza che teniamo sotto stretta osservazione, niente di paragonabile con quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, ma anche in Spagna, dove c'è un vero crollo verticale del mercato immobiliare. In Gran Bretagna abbiamo un meno 30% almeno nelle quotazioni immobiliari. E allora, qual è la situazione attuale nel mercato del mattone italiano? Cosa dobbiamo aspettarci? Ancora un 2010 all'insegna del segno meno? Abbiamo segnali invece di stabilizzazione o dobbiamo ancora toccare il fondo? Sono tutti temi che affronteremo questa mattina. Intanto con Evelina Marchesini, caporedattore di Casa e Case Mondo Immobiliare, che sono gli inserti del Sole 24 Ore, dedicati ovviamente a questo settore. Casa e Case, lo ricordiamo, Evelina, settimanale, Mondo Immobiliare invece è il mensile. Bentornata a Salva Danaio. Grazie, bentrovati. Tra l'altro, proprio la storia di copertina di sabato scorso era dedicata al rapporto Nomisma. Esattamente. Abbiamo dato tutti i dettagli del rapporto Nomisma con la classifica degli sconti, che sono particolarmente interessanti per chi voglia comprare una casa nuova, quindi in cantiere. E allora, bel tema anche questo. Luca Dondi, analista di Nomisma Real Estate, bentornato anche lei a Salva Danaio. Grazie, buongiorno Deborah, buongiorno Evelina. È il curatore di questo rapporto, per cui ce lo faremo raccontare direttamente da lui, almeno per quello che sono le tendenze più interessanti. Andremo un po' anche a caccia, come dire, di fenomeni interessanti a seconda delle varie città, a seconda della città dove abitiamo. E comunque ci piacerebbe anche coinvolgervi, come sempre, all'800 24 00 24, oppure scriveteci se volete alle 349 238 6666. La borsa questa mattina è proprio una brutta giornata. Pensavamo che quanto accaduto a Dubai, dove tra l'altro sono riprese le contrattazioni in borsa e la borsa ha festeggiato il possibile default di Dubai World con un calo stamattina fra il 7 e l'8%, pensavamo appunto che l'Europa e Wall Street avessero già messo da parte le preoccupazioni legate a questo dissesto finanziario. Invece stamattina l'Europa ha riaperto piuttosto male. Abbiamo degli indici in ribasso di oltre un punto a Parigi e Francoforte, Londra meno 0,6, Milano meno 0,99%. Sul FTSE MIB salgono pochi titoli, a Milano in questo momento, anzi forse da qualche minuto la lista si è un po' allungata, Pirelli più 0,8, Telecom in vista di un consiglio di amministrazione fissato per mercoledì più 0,38, Snam più 0,38, Lottomatica più 0,37, A2A più 0,23%. Scendono invece in maniera abbastanza significativa Mondadori meno 2,7, Ubibanca meno 2,6, Banco Popolare meno 2,41, meno 2 anche per Impregilo, Buzzi, abbiamo qua le costruzioni, Unicredit e Mediolanum sempre in ribasso di 2 punti percentuali. Euro su dollaro e riparte a razzo la moneta unica europea sul biglietto verde, 1,50,41 in questo momento. Abbiamo il tema dell'inflazione stamattina, molto interessante, perché a novembre sia in Italia che in Europa sembra aver rialzato leggermente la testa, più 0,7% per quello che riguarda il nostro paese. Il petrolio è a $76 al barile. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo sul mattone. I prezzi del mattone continuano a calare, ma si iniziano ad intravedere i primi segnali di miglioramento. È questa la fotografia del mercato immobiliare italiano nel secondo semestre del 2009, scattata nei giorni scorsi da Nomisma. In particolare, nelle principali città italiane, la contrazione dei prezzi è stata pari all'1,6%. Il calo dunque c'è ancora, ma inferiore a quello dei mesi precedenti. E in ogni caso, la diminuzione totale dei prezzi, che dall'inizio della crisi del settore pari al 5% circa, è nettamente inferiore a quella di altri paesi come Stati Uniti o Gran Bretagna, dove si è assistito a un crollo delle quotazioni pari anche al 30%. Il rallentamento della discesa dei prezzi riguarda, oltre che tutte le tipologie di immobili, anche la maggior parte delle città, tra le quali spicca il meno 5,9% di Venezia Mestre rispetto al 2008, che diventa meno 5,6% per Venezia Centro. Segue a ruota Firenze con meno 5,6%. La città meno colpita dal calo dei prezzi degli immobili è invece Cagliari, meno 0,8%, seguita da Bari e Torino. Appare invece più significativo il calo delle compravendite, che nel terzo trimestre 2009 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è stato dell'11% per il residenziale, del 18,9% per il terziario e di oltre il 17% per il commerciale. E insomma, ci sono tanti ambiti da analizzare, peraltro ci piacerebbe anche con Evelina, se riusciremo a farlo, fare qualche valutazione anche per esempio sul mercato della seconda casa, quello che... Certamente, la montagna per esempio, che interessa chi si reca da adesso nei prossimi weekend in montagna, magari inizia a pensare di comprare una seconda casa proprio lì. Secondo te il crack di Dubai World si rifletterà sul mercato immobiliare in termini generali, già oggetto in questo momento di un vortice negativo? L'ho chiesto anche a Luca Dondi venerdì scorso, non appena è stato pubblicato il rapporto Nomis, ma lui dice sicuramente nell'ambito finanziario qualche ulteriore tensione la determinerà questa situazione, che è molto lontana da noi ma relativamente in un mondo che è globalizzato dal punto di vista finanziario. Sì, io qui introdurrei proprio un concetto interessante, cioè quello della sensazione delle persone. Sappiamo che gli aspetti emotivi sono particolarmente importanti anche nel fare il mercato, e quindi sicuramente quello che è successo a Dubai può ingenerare una sorta di incertezza. In realtà quello che stiamo vedendo è una situazione molto differenziata, soprattutto per chi ha comprato a Dubai, e gli italiani che hanno comprato a Dubai negli anni scorsi sono veramente molti. Dipende da chi quando ha comprato a Dubai, Evelina? Hanno comprato varie categorie di persone, soprattutto imprenditori e liberi professionisti, tanti che poi magari hanno anche spostato la residenza per motivi fiscali. Quello che è successo negli ultimi due anni però è abbastanza garantista nei confronti dell'acquirente straniero, perché le società che vendevano a Dubai obbligatoriamente dovevano mettere queste caparre in un fondo e non toccarle fino alla fine dei lavori. Quindi sostanzialmente chi ha comprato negli ultimi due anni è molto più tutelato di chi ha comprato prima. In precedenza. Ha fatto Luca Dondi, comincio a coinvolgere anche lei, un'osservazione piuttosto interessante, Evelina Marchesini, sul tema della percezione sull'andamento del mercato immobiliare, perché ho letto dal vostro rapporto che voi che quest'anno per la prima volta avete proprio fatto una rilevazione tra la percezione, no, degli interpellati per questo rapporto accanto al dato misurato. Ci dice esattamente che cosa significa questo? Abbiamo cercato di creare ulteriore confusione in un momento già difficile per quanto riguarda la lettura dei dati congiunturali. Abbiamo aggiunto alle indicazioni che riceviamo e che chiediamo agli operatori immobiliari anche di segnalarci quella che è la loro sensazione sull'attuale momento del mercato, e i dati che sono arrivati sono stati leggermente peggiori rispetto ai dati che invece emergono da una lettura dei valori che gli stessi intervistati ci comunicano. Questo vuole dire che c'è una percezione nel mercato, che non è solo degli operatori, di un calo molto più marcato di quello che in realtà i numeri non dicono. E questo probabilmente è da ricondurre soprattutto a un discorso legato anche al livello degli investimenti, cioè si tende a fare non dico confusione, ma considerare congiuntamente i livelli di attività rispetto ai prezzi. Il calo dei livelli di attività è quasi un crollo, nel senso che negli ultimi tre anni il numero di compravendite si sono ridotti di oltre il 30%, dal punto di vista dei prezzi invece il calo è ancora piuttosto contenuto, forse non è il 5 o il 6% che in media noi rileviamo, probabilmente il nostro è un dato sottodimensionato e comunque è in linea con quello che osservano i principali osservatori sul mercato immobiliare italiano, però non è un dato che sicuramente va oltre il 10%, quindi è una sensazione generale di crollo del mercato maggiore rispetto a quello che in realtà è. Eppure gli ascoltatori, io vedo che quelli che stanno cominciando a voler intervenire, vedo delle anticipazioni sulle considerazioni che vorranno fare non appena riusciremo a metterli in diretta. Il tema proprio della percezione è piuttosto interessante, perché loro dicono che, a dispetto di quello che stiamo raccontando noi, per chi sta cercando casa in questo momento notano tutt'altro che prezzi in calo. Evelina, perché? Beh, questo dipende molto dalle zone, dalle grandi città, dalle periferie. Ovviamente il mercato immobiliare è fatto di tante piccole realtà. Sicuramente quello che si può notare è un aumento delle abitazioni in locazione. E questo perché lo dico? Per far capire qual è il meccanismo che sta alla base del ragionamento dei venditori. Chi non ha proprio bisogno di vendere in emergenza la casa chiede un determinato prezzo. Se dopo un tot di tempo non è riuscito a vendere l'immobile, lo mette in affitto, aspettando sostanzialmente tempi migliori. Essendo il mercato italiano fatto proprio di questa tipologia di proprietari, cioè fondamentalmente persone che, salvo rari casi, hanno bisogno di vendere la casa per motivi di emergenza, si preferisce proprio temporeggiare. Quindi, da un lato assistiamo a un allungamento sicuramente dei tempi di vendita, che, come rileva proprio il rapporto Nomisma, ormai sfiora i 7 mesi, che decisamente non è poco. Ricordiamo che solo 3 anni fa parlavamo di una media di 3 mesi e mezzo, quindi sicuramente c'è stato un grosso peggioramento. L'altro fatto è proprio questo: vende con dei prezzi in ribasso solo chi ha veramente necessità di vendere. Chi magari ha già fatto una sorta di compromesso per comprare magari una casa più grande, per cui è chiaro che deve incassare. Oppure, se posso aggiungere questa cosa particolare, che era quella che dicevamo all'inizio, il costruttore, quindi chi è esposto per esempio con le banche, ha costruito, ha sviluppato un immobile e deve per forza vendere gli appartamenti perché si trova in questo momento in difficoltà, allora sì, concede degli sconti. Ecco perché gli sconti in cantiere, secondo le rilevazioni di Nomisma, ma confermate anche dalle nostre rilevazioni, infatti, perché noi incrociamo sempre diversi dati prima di fare gli articoli su case case, effettivamente lo sconto in cantiere è raddoppiato. E questo è proprio il titolo, peraltro, di case case di sabato scorso. Un tema piuttosto interessante, perché io in realtà pensavo invece che il mercato del nuovo fosse un po' più rigido rispetto a quello, diciamo, del privato, del residenziale privato, cioè quello che si determina proprio nel confronto fra chi vuole comprare una casa e chi la vuole appunto vendere, ma sono due privati, quindi non si va dal costruttore. Invece vedo che anche il costruttore, naturalmente, per poter piazzare quello che costruisce, deve scendere un po' a compromessi. Riprendiamo Salva Danaio, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Questa mattina riesploriamo un po' le tendenze del mattone nel nostro paese alla luce del rapporto Nomisma pubblicato venerdì scorso. Abbiamo il solito consueto monitoraggio fra le 13 principali aree urbane del nostro paese e nel secondo semestre di quest'anno si prevede una flessione dei prezzi dell'1,6%. Ora, un dato che, come dire, viene anche un po' contestato dai nostri ascoltatori, passatemi il termine, perché in molti osservano che in realtà questi cali delle quotazioni di cui stiamo parlando, che ovviamente sono in misura molto diversa a seconda delle città considerate, per la verità dicono: ma dove li vedete questi cali dei prezzi? Perché noi non notiamo affatto questa tendenza. E però, in ogni caso, se abbiamo avuto dal picco del 2006 250.000 compravendite in meno, evidentemente sul mercato qualcosa sta succedendo, o forse le compravendite sono tanto in calo proprio perché i prezzi non scendono e velina, magari può anche essere letto in questa maniera. Ma no, in realtà le compravendite sono in calo. Grazie anzi, Deborah, per questa domanda, perché è importante. Sono in calo soprattutto per il fatto che le banche non concedono quasi più mutui, e quindi tutta quella fascia di acquirenti che acquistava casa ricorrendo a mutui del 90-100%, ma direi anche 120%, esatto, con quotazioni chiaramente valutazioni. Una cattiva abitudine americana che noi abbiamo avuto la tentazione di esportare, esatto, per poco. Con valutazioni dell'immobile magari gonfiate, eccetera. Tutti questi acquirenti sono spariti, quindi tutti i lavoratori che non hanno un lavoro fisso, tutti i contratti a termine, tutti gli immigrati non sono più nelle condizioni di acquistare case, il che è un problema drammatico per l'Italia. È un problema che io personalmente segnalo, anche perché in tema di social housing, cioè la cosiddetta edilizia convenzionata, che non è quella popolare, è quella che concede l'acquisto dell'abitazione o almeno l'affitto della casa, per esempio alle giovani coppie o queste categorie, è in Italia totalmente sottosviluppato. Noi spendiamo in Italia una media di 7 euro per abitante in questo social housing. Per esempio, in Gran Bretagna la cifra è intorno ai 257 euro, quindi di lavoro da fare su questo fronte ce n'è moltissimo perché diventa chiaramente un'emergenza abitativa. Ebbene, allora, Filippo dalla provincia di Frosinone, le avevamo promesso di intervenire, eccoci a lei, e poi ovviamente partendo dalla sua domanda reinterpello Luca Dondi, che sennò pensa che ce lo siamo dimenticati a Bologna, è l'analista, appunto l'autore di questo rapporto in Nomisma Real Estate. Filippo, buongiorno. Ringrazio, buongiorno. Senta, io sono un professionista, quindi volevo dire, io sono un po' confuso perché Di tanto in tanto seguo il supplemento del sabato Casa e Case e vedo che ampiamente, facendo riferimento a studi specializzati che afferiscono al vostro giornale, sì. Giornale, e insomma si parla di abbassamenti dei prezzi del mercato che a me è più prossimo, che sarebbe Roma. Poi quando vado a vedere gli annunci sul supplemento del giornale romano, che sarebbe Il Messaggero, oppure sul Porta Portese o quant'altro, vedo che i prezzi sono veramente fermi. Addirittura, con mia sorpresa, ieri leggo dei prezzi che non ho mai visto, milioni di euro addirittura. Cioè, dove sta questo abbassamento dei prezzi? Probabilmente è vero quello che dice la sua interlocutrice, che l'abbassamento la riduzione delle contrattazioni, però la gente non ci prova ad abbassare i prezzi, sono inavvicinabili, assolutamente. Certo, inavvicinabili. Certo, la bolla speculativa da noi, la bolla immobiliare rimane. No. Perché i prezzi sono inavvicinabili. E infatti Roma ha avuto sempre, come dire, anche questa reputazione. Sì, Filippo, certo, guarda. Una zona 10%, assolutamente, non li vedo. Non li vedo assolutamente. Ma Piazza Bologna non se ne parla. Sono prezzi altissimi. Evidentemente prezzi, chi ha in proprietà quelle abitazioni non ha fretta a rivendere, come dicevamo prima. Evelina, sento per un attimo Luca Dondi, cosa dice Nomisma su Roma e se questa città, insomma, ha fatto rilevare nel secondo semestre di quest'anno, rilevato dal vostro ultimo rapporto, una tendenza particolare, lo riporta anche Casa e Case. Comunque lo sconto delle abitazioni viene rilevato tra il 7,4% e l'11,7% sulle nuove in particolar modo, sulle vecchie, sulle usate anche qualcosa in più, quasi il 15%. Sì, sono assolutamente d'accordo, Roma è, se vogliamo, in controtendenza, i dati segnalano una tenuta dei valori, il calo del secondo semestre del 2009 è molto contenuto, siamo nell'ordine del punto percentuale, per cui l'impressione che ricava l'ascoltatore è assolutamente corretta. Sono anche d'accordo sul discorso dell'importanza del credito bancario, che è venuto meno e quindi rende il mercato immobiliare inavvicinabile per una larga fascia di popolazione. In questo momento sul mercato c'è soprattutto chi ha liquidità e chi non ha bisogno di ricorrere al credito bancario, e sono questi i soggetti che, pur in uno scenario molto rarefatto dal punto di vista del numero di scambi, contribuiscono a mantenere elevati i valori di mercato. È chiaro che c'è un problema di accessibilità del mercato, i valori così come sono sovradimensionati di almeno il 15% rispetto alle disponibilità delle famiglie. In assenza di credito bancario questa situazione non è sostenibile. Quindi Dondi, questo meno 1,6% che avete individuato come calo delle quotazioni per il secondo semestre del 2009 è stato determinato da che cosa, da quali città hanno presentato appunto la diminuzione più forte per quello che riguarda i prezzi? Perché chiaramente, se una statistica è negativa, da qualche cosa sarà stata pure prodotta. Sì, abbiamo dei dati comunque tutto sommato omogenei. Il calo maggiore l'abbiamo registrato appunto a Venezia, come riportava la scheda di apertura, a Firenze siamo sopra il dato medio, a Bologna siamo ancora al di sopra di quel dato, però non siamo su livelli nettamente superiori rispetto alla media. È chiaro che ci sono mercati, soprattutto al nord, che hanno fatto registrare uno sgonfiamento rispetto ai massimi, leggermente superiore rispetto a quello che è successo nei mercati del centro-sud, però non ci sono, dal punto di vista dei prezzi, controtendenze eclatanti. Ecco, il segnale di Roma è un segnale importante, i prezzi a Roma tengono più che altrove. Anche se c'è qualche hinterland che, come diceva Evelina Marchesini, a microfoni spenti presenta delle tendenze invece assolutamente eccezionali, trilocali addirittura nella provincia di Milano, in paesi anche che sono piuttosto carini, dove si abita bene, c'è una bella qualità della vita, dove veramente adesso comprar casa, se fosse possibile, ci sarebbero delle occasioni eccezionali. Sì, senz'altro. Poi soprattutto il dato di Roma, il dato medio periferico è assolutamente poco rappresentativo. Nella periferia di Roma ci sono realtà completamente diverse, per cui è un dato che deve semplicemente segnalare una tendenza macro. Bisogna andare assolutamente nel micro per analizzare i submercati che ci sono a Roma. Teniamo presente che Roma è divisa in 300 microzone dall'Agenzia del Territorio, questo vuole dire che c'è una diversità di andamento che merita analisi ben più attente di quelle che si possono fare con Evelina. Un dato medio aggregato. Sì, io credo che a questo punto veramente la domanda che ci si deve porre è se abbiamo o non abbiamo toccato il fondo, che è quello poi che si chiedono molti italiani che si rivolgono ancora una volta al mattone come investimento, perché data la volatilità dei mercati finanziari c'è una fetta molto consistente della popolazione che guarda real estate come bene rifugio, e sono quelle persone che vorrebbero comprare chiaramente quando si è raggiunto il fondo e si ricomincia a salire. Nessuno ha la sfera di cristallo e può dire quando. Sicuramente, secondo noi, secondo me, analizzando le varie fonti, sicuramente questo fondo non è ancora stato toccato. Esiste, come diceva prima Dondi, comunque una sopravvalutazione di molte zone. Le città che non scendono, tipo Roma, ed è sicuramente Roma in alcuni posti, lo dimostra. Ricordiamo però anche che l'Italia, tutto sommato, è cresciuta meno degli altri paesi negli ultimi anni, e quindi anche lo sgonfiamento della cosiddetta bolla immobiliare, viene che in Italia non si è vista, in realtà la bolla immobiliare in Italia non c'è stata, avviene in modo più graduale. Ecco, noi abbiamo fatto delle nostre elaborazioni e noi abbiamo previsto dei prezzi in caduta del 6,6% entro la fine del 2009, quindi il 2009 secondo noi in media si chiuderà con questo arretramento, che è un pochino maggiore di quello che rileva per esempio Nomisma, con dei segnali di ripresa l'anno prossimo, ma dopo il primo semestre. Poi sempre sul fatto appunto del perché i prezzi non scendono, i prezzi sostanzialmente non scendono molto nelle zone in cui l'offerta è limitata, ma nelle aree in cui l'offerta è molto alta, per esempio perché si è costruito tantissimo, questo non accade. Sappiamo che nelle grandi città, nelle città storiche, costruire il nuovo è molto difficile, quindi l'offerta di nuovo è assai limitata. Negli hinterland invece si costruisce molto di più, quindi l'esempio che facevi prima tu, Deborah, è esatto, ci sono delle cittadine nell'hinterland milanese, per esempio, dove si è costruito parecchio e dove si trovano trilocali in cantiere a 115.000-120.000 euro. Quindi probabilmente bisogna anche iniziare a indirizzare la domanda in un certo modo. Poi bisognerà anche vedere, per quanto riguarda Milano per esempio, tutto l'effetto Expo di cui si è parlato. E infatti c'è, per la verità, anche un altro tema che un ascoltatore di Milano poi vuole introdurre. Vittorio, però Vittorio, le chiedo un attimo di pazienza, è quello dello scudo fiscale, adesso gli facciamo fare la sua domanda. C'è Corrado però che in attesa da un po' più tempo. Corrado chiama in causa un altro attore di questo mercato che è molto molto ricco, molto variegato. Buongiorno. Buongiorno. Le agenzie immobiliari, vedo. Come? Scusi? No, dico, ho detto Corrado ha chiamato in causa un altro attore del mercato immobiliare che è rappresentato dalle agenzie. Sì, la mia è una sorta di intervento, è una sorta di domanda osservazione, sì. Perché Galeotto sono state le vostre guide, fortunatamente sono 24 ore dei mesi scorsi sulle compravendite, mi hanno aperto gli occhi. Ho trovato un sito internet della Camera di Commercio di Milano dove praticamente danno i prezzi medi delle compravendite in provincia. Perfetto. E con quei prezzi medi il costo di un appartamento anche in centro, e mi riferisco a Brugherio, perché c'erano i prezzi anche di Brugherio, erano di almeno 50.000 euro in meno rispetto a quelle date dalle agenzie. Ora io sono andato per agenzie e ho chiesto, ma scusate, ma qual è il significato di questi prezzi medi della Camera di Commercio? Vengono utilizzati oppure no? La risposta è, ma chi usa questi prezzi? Ora, a questo punto, chi stabilisce il prezzo di una casa? Perché io porto due esempi. Un appartamento mansardato, bellissimo, eccetera, eccetera, 330.000 euro. Una di queste agenzie mi ha detto, soltanto un anno e mezzo fa, costava 2,90. Ora è l'unico caso al mondo in cui in crisi è aumentato del 40%. No, non credo che sia l'unico caso. Sì, Corrado, no, cioè, quindi in sostanza chi stabilisce il prezzo della casa? Sicuramente intanto lo stabiliamo noi in ragione di quanto vogliamo un'abitazione, e quindi dobbiamo trattare anche con il possibile venditore, no? Se siamo dalla parte dell'acquirente. Poi chiaramente dobbiamo anche fare in modo che il prezzo che si spunta sia anche ragionevole in relazione al posto in cui il luogo, la casa, l'abitazione, l'edificio, l'immobile è ubicato. Ci sono tanti fattori da considerare, e magari, che ne so, c'è qualcuno disposto questo immobile di cui lei parlava a pagarlo 330.000 euro perché lo vuole a tutti i costi, e però magari non è proprio esattamente in linea come sta andando il mercato. Corrado, ci sono tanti fattori, non è che esista una regola uniforme. Allora, Evelina Marchesini, chi fa il prezzo di un immobile? Ma il prezzo dell'immobile chiaramente lo deve fare il mercato, quindi l'incontro tra la domanda e l'offerta. E ricordiamo, per rispondere all'ascoltatore precedente, che comunque ormai gli agenti immobiliari sono sempre più dei professionisti con grandi corsi di formazione, soprattutto sul fronte del marketing, e quindi non bisogna farsi influenzare da certe strategie di marketing che sono poi più o meno ripetitive e che sono sempre quelle: ah, ma questa casa valeva meno, si è già rivalutata nonostante la crisi, piuttosto che quei cantieri che ti dicono: ah no, ma guardi, deve comprare assolutamente adesso perché il secondo blocco che costruiremo andrà sicuramente in vendita con una maggiorazione del 20%. Ecco, secondo me, anche da un punto di vista di serietà professionale dell'interlocutore, bisogna evitare questa tipologia di ricatti. Un consiglio molto, molto pratico potrebbe essere quello di cercare di individuare 5, 6, 7 immobili che ci vanno bene e fare delle offerte chiaramente al ribasso rispetto al prezzo che viene richiesto. Io dipende chiaramente dalle zone: se uno cerca in centro a Milano, il ribasso non ci può stare, ma in altre zone con maggiore offerta, fare delle offerte con degli sconti del 15 anche 17% e vedere tra queste 5-6 case dove ci si può venire incontro. Ovviamente parlo di tastare il terreno, non di firmare delle proposte vincolanti, in modo che poi comunque si possa scegliere. Ecco, io credo che gli spazi di trattativa comunque oggi ci siano assolutamente oggi più sicuramente che in passato, e bisogna anche quando trattare. Sembrava che tutto crescesse. Mi chiedo, Evelina, se hai ancora la percezione che, per esempio, nelle vetrine delle agenzie immobiliari comunque si tenti sempre di piazzare un prezzo molto più alto del valore che poi sarà possibile raggiungere in fase di compravendita definitiva, proprio per spuntare, come dire, più margini di trattativa. Ma questo sì, è vero, tante volte non è nemmeno colpa dell'agente immobiliare, diciamolo, tante volte è proprio il venditore che non si rassegna al fatto che il mercato possa scendere, quindi qui sta la bravura dell'agente immobiliare nel far percepire questa discesa effettiva che già c'è stata, e quindi non impuntarsi su prezzi troppo alti. Vittorio da Milano, eccoci a lei, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Io faccio una semplice considerazione. Sì. Lo scudo fiscale è in pieno svolgimento. Sì, tra l'altro volevo segnalare che noi ne riparliamo ancora domani a Salvadanaio, perché esce un altro rapporto del Sole 24 Ore. Sì. Ecco, per cui sembra che siamo già arrivati sui 100 miliardi di euro. Lo scudo fiscale precedente, quando è partito, ha influenzato i prezzi delle case in modo notevole. La previsione qual è degli esperti? Se questo scudo terra in sostanza possa impattare sui prezzi degli immobili nel nostro paese ancora una volta. Luca Dondi, vi siete fatti questa domanda nel vostro ultimo rapporto? Sì, ci siamo fatti questa domanda. La risposta è che sicuramente una parte di questi soldi finiranno anche sul mercato immobiliare. Non succederà invece quello che è successo all'inizio degli anni 2000, nel senso che tutta quella massa di quantità monetaria che è arrivata allora difficilmente arriverà questa volta, semplicemente perché siamo in una fase congiunturale completamente diversa. Il mercato è in una fase negativa, le aspettative sono di ulteriore flessione. Anche perché magari le banche faranno in modo di trattenere questo denaro che arriva, da non farlo dirottare dalle persone che fanno rientrare sul mattone, non lo so, ma magari attraverso anche mutui, non lo so. A parte questa divagazione, sì. Sono risorse che potenzialmente potrebbero interessare il mercato, secondo me in misura minore rispetto al passato. C'erano condizioni macroeconomiche anche diverse allora rispetto a quelle di adesso, e che sostanzialmente in questo momento questa massa monetaria alla finestra, in attesa di trovare l'allocazione migliore, non ci sarà un effetto immediato di trasferimento dall'estero al mercato immobiliare. C'è un ascoltatore che dice: ma che trasmissione inutile che state facendo, ma dove li ha visti? A Milano, l'Interland 100 metri quadri a 115.000 euro, Evelina. In realtà credo che tu li abbia visti proprio con i tuoi occhi, mi dicevi, sì, prima, di un paese qua intorno. Sì, a Lissone. Non sto parlando di 100 metri quadri, ormai come tutti sappiamo i trilocali sono sempre più di dimensioni ridotte, e anche questo sarebbe un tema su cui fare una trasmissione, cioè la qualità degli immobili. Ovviamente stiamo parlando di immobili che non hanno una qualità elevatissima, e non di 100 metri quadrati. Ci sono trilocali che tranquillamente stanno 75. Anche al di sotto degli 80 metri quadrati, ecco, quindi questo sicuramente. Dopodiché bisogna anche aggiungere che si tratta di offerte chiaramente in cantieri, quindi di acquisto di immobili sulla carta con un certo tipo di rifiniture, e quindi è un target che va a indirizzarsi verso per esempio le giovani coppie che hanno una difficoltà di accesso alla prima abitazione. Comunque consiglio eventualmente di fare dei tour, se uno veramente fosse interessato, non tanto presso le agenzie immobiliari, perché come sappiamo il cantiere normalmente vende direttamente, mm-hmm. quindi si saltano proprio anche i costi di intermediazione. Assicuro, perché ho visto con i miei stessi occhi che queste cose ci sono, non sono magari numerosissime e non sono di certo i 100 metri quadrati, anche se parliamo di trilocali. Però per fare un altro esempio, a Bicocca, e non faccio il nome di chi vende chiaramente, stanno vendendo un nuovo sviluppo in categoria energetica A, quindi questo è un altro concetto che andrebbe introdotto, cioè quindi la qualità energetica, a 2.800 euro al metro quadrato, e quello che pubblicizzano è effettivamente quello che vendono. Mm-hmm. L'ultima domanda la assegniamo ad un altro ascoltatore dalla capitale. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, la ringrazio. Rapidissimo. Allora, per prima cosa volevo dire che per quanto riguarda la pubblicazione dei dati di Nomisma, c'è una bella differenza tra i prezzi che noi abbiamo pubblicati anche sui quotidiani e sui giornali di settore e quelli poi che sono gli effettivi prezzi a cui si chiude la compravendita. E poi per quanto concerne il mercato di Roma, ci sono moltissimi operatori che non sono iscritti alla Camera di Commercio come agenti immobiliari, che operano, il cui unico intendimento è carpire un incarico e fanno delle valutazioni che non si possono nemmeno definire valutazioni. Vabbè Enrico, l'importante è saperlo, poterli individuare, anche questi professionisti che si fanno definire tale, sicuramente metterli fuori dal mercato senza concludere le trattative, le compravendite presso di loro. Credo che però questa crisi, Evelina, sicuramente una bella lezione a professionisti poco seri l'abbia data. Beh, speriamo proprio di sì. Comunque si sta assistendo a una certa disintermediazione, perché un po' grazie all'aiuto dei siti web che consentono di accedere direttamente anche alle offerte dei privati, un po' perché comunque il consumatore è sempre più evoluto, quindi si informa e quindi si dà da fare eccetera, quindi per questo motivo c'è e ci dovrà essere ulteriormente un'evoluzione. Ricordiamo che in Spagna, dove il crollo dei prezzi è stato, come ricordavate all'inizio, molto marcato, le agenzie immobiliari si sono ridotte del 60%. Più che dimezzate. Evelina, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo magari in concomitanza dell'uscita dei vostri prossimi rapporti. Grazie anche a Luca Dondi, anche con lui abbiamo un appuntamento praticamente ogni 6 mesi fisso e costante a Salvadanaio. Arrivederci, a presto. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito. Salvadanaio, lo ripeto, torna domani ancora una volta con lo scudo fiscale. Siamo ormai al rush finale. Buona giornata a tutti.